Radio 24 Reportage. Non più scuole di serie B. Ecco a voi gli istituti tecnici italiani. Di Valeria De Rosa. Ho fatto la scuola di alberghiero, ma era nel periodo in cui iniziai a repare, no? Quindi non mi interessava più niente. Ho fatto anche l'ITIS un mese, poi mi hanno cacciato dalla scuola e ne ho fatta un'altra, bellissima per quel che mi ricordo io, che era una scuola laboratorio, ci mandavano a fare degli stage. Però alla fine hanno chiamato l'assistenza sociale per tutti, mi ricordo, perché in quella classe lì oltre a me c'erano un sacco di scappati di casa. Lui è Emi Schilla, rapper milanese di nascita, classe 1989. Il suo percorso scolastico finisce in terza media. Il resto lo racconta lui stesso e nelle sue parole chi non ha ritrovato la conferma a un pensiero comune. Agli istituti tecnici vanno quelli che non hanno voglia di studiare, che non sono portati per le materie umanistiche e forse nemmeno per quelle scientifiche, nel senso più alto del termine. Quelli portati devono andare al liceo. Una credenza, una verità, una credenza diventata reale. Certo è che, come sostiene il vicepresidente di Confindustria, Ivan Lobello, nel dopoguerra gli istituti tecnici hanno fatto la loro parte. Io ricordo sempre che gli istituti tecnici sono quelli che hanno costruito il paese. Poi alla fine degli anni 60-70 è emerso che l'unica formazione dignitosa era la cultura umanistica, che è importante e significativa. Questo ha disincentivato tante famiglie e tanti ragazzi a indicare il percorso tecnico. Qualcosa sta cambiando oggi. Qualcosa sta cambiando, qualcosa è già cambiato in alcune regioni dove gli istituti tecnici, raccogliendo assieme sia l'offerta post scuola media sia i percorsi formativi post diploma, si sono rinnovati e hanno rivoluzionato programmi e rapporti con le imprese. In Alto Adige, per esempio, come funziona lo spiega Stefano Pan, presidente Assoimprenditori. I giovani che sono disoccupati, che non sono tanti, trovano comunque, il 90% di questi trova lavoro nell'arco di qualche mese, quindi è un sistema che porta i giovani dalla panchina in campo subito. È un sistema che abbiamo importato, copiato come best practice a sua volta dal Baden-Württemberg, dalla Germania, più di 20 anni fa e che funziona in un modo molto semplice. Più che duale si dovrebbe chiamare sistema di doppia formazione. L'azienda diventa scuola, i giovani che fanno l'apprendistato apprendono a scuola, nelle scuole professionali, ma anche in azienda, vengono in azienda per imparare e questo connubio di doppia formazione aiuta a avvicinare il mondo del lavoro al mondo della scuola, diventa uno, non sono due mondi, è un unico mondo nel quale le aziende investono, questi giovani che entrano in azienda vengono pagati e diventano le risorse dell'azienda. Una volta che ho una risorsa, un giovane che è bravo, una giovane che è brava, ben preparato, me la tengo. È possibile che questo concetto, me lo tengo, spaventi i ragazzi, insinui in loro il sospetto che le imprese vogliano colonizzare la scuola a loro uso e consumo? L'accusa si è levata più e più volte dalle piazze, dove gli studenti manifestano tutto il loro disappunto per una scuola che, oggettivamente, ha più di una crepa e che invece di includere, spesso esclude. La dispersione scolastica ci vede ai primi posti in Europa. Il 17% dei ragazzi si ferma alla scuola media. Per numero di laureati, invece, siamo ultimi, poco sopra il 22%. La disoccupazione giovanile viaggia stabile oltre il 40%. Due facce di una realtà che prova a ricomporre Lobello. Non sono i ragazzi che hanno paura, sono le tante persone che materializzano la paura dei ragazzi, perché i ragazzi sono pronti ad affrontare qualunque cosa. No, su questo c'è oggettivamente un problema nel nostro paese, ed è un problema prevalentemente ideologico, dove la scuola è un luogo sacrale e nessuno deve pensare che l'impresa possa avere un ruolo nella scuola. Gli imprenditori non sono degli sciocchi, gli imprenditori vogliono che le scuole siano in grado di formare benissimi i ragazzi, quindi non abbiamo nessuna pretesa di entrare dentro nella scuola, vogliamo scuole capaci di dare competenze e una prospettiva ai ragazzi. L'alternanza scuola-lavoro non significa infeudare la scuola, significa che il percorso scolastico deve convivere col percorso lavorativo, stage, tirocini, apprendistati. Quindi sono tutte piccole retoriche ideologiche che fanno male al paese, che danno un messaggio negativo ai ragazzi. Noi vogliamo ragazzi che studino con grande scuola e abbiano grandissime competenze. Poi affronteranno la scuola e se l'affrontano già in un meccanismo di alternanza scuola-lavoro, per loro è una grande prospettiva. In Germania la disoccupazione giovanile è del 7%, non è il 43%. Una parte di questo dipende dalla mancanza di alternanza scuola-lavoro, cioè da questa separazione netta tra formazione a scuola e formazione in azienda. Guardando in casa nostra, non è solo l'Alto Adige che ha cercato di tirare fuori il meglio dalle best practice europee. Anche in Emilia si sono dati da fare e hanno rimesso le mani nel sistema. L'Istituto Superiore Nobili di Reggio ne è un esempio, un polo tecnico di cui è preside il professor Valerio Messori. A livello nazionale i licei sono ancora quelli che hanno la maggioranza delle iscrizioni. E Reggio Emilia, fortunatamente, ha anche gli istituti tecnici che sono in buonissima posizione. Quindi qui da noi comunque un pochino si sta ripensando, insomma, non è più vista più solo come una scuola per, diciamo così, per ragazzi tipo B, ma è assolutamente una scuola che offre prospettive di lavoro, prospettive sul futuro e una buona preparazione. Io dico sempre che un ragazzo che ha scelto il tecnico e che vuole poi affrontare per esempio ingegneria come proseguimento degli studi probabilmente ha una preparazione migliore di un ragazzo di un liceo. L'Emilia e l'Alto Adige possono essere soddisfatte dell'offerta messa a punto, ma non sono le sole. Il Veneto ha stanziato 3 milioni di euro per i laboratori della conoscenza. In sostanza si tratta di realizzare percorsi di alternanza. La Lombardia ha attivato 2.300 percorsi di alternanza, pari a un impegno di circa 196 milioni. Anche nelle Marche il progetto di alternanza scolastica sta prendendo piede. Secondo gli ultimi dati, il 70% dei ragazzi che si iscrivono ai corsi per conseguire la qualifica professionale triennale raggiungono l'obiettivo. In Campania la programmazione avviene d'intesa con le imprese, considerando i fabbisogni professionali. Detto questo, secondo i dati Confindustria, in Italia solo il 9% degli studenti di scuola superiore frequenta percorsi di alternanza. Di ragazzi che però scelgono percorsi diversi da quelli più conosciuti, dopo le scuole medie, ce ne sono. Oltre 120.000 secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione. Ma i diplomati tecnici e professionali che le imprese cercano e ancora non trovano sono quasi il doppio. 74 istituti tecnici superiori e quasi 800 tra istituti tecnici e professionali. I ragazzi li vedono così. Che scuola frequentate? L'Istituto Tecnico ITIS Nobili di Reggio. Liceo Scientifico Spallanzani di Reggio. Cosa vuoi fare dopo? Io ricerca scientifica. Dopo la laurea vorrei intraprendere un percorso di dottorato e poi in fisica e poi dopo proseguire con la ricerca. A me piacerebbe fare ingegneria biomedica, quindi stare nel campo della medicina per le nuove tecnologie in questo campo, diciamo. Come sei arrivata a questa scelta? È stato, diciamo, all'inizio quasi per caso. Poi alla fine, essendomi appassionata molto alle materie, soprattutto della meccanica appunto, ho deciso di continuare questo percorso. L'ho scoperto anche lì appunto per caso, perché ero arrivata a una scelta tecnica già di mio. Avevo sempre desiderato comunque rimanere più nell'ambito tecnico che nell'ambito, diciamo, umanistico-scientifico. E ho appunto scoperto questo percorso che secondo me poteva essere molto valido anche dal punto di vista poi di un futuro lavoro o di altre scelte, che comunque manteneva strade di diverso tipo aperte. Come ti avevano indirizzata alle medie? Alle medie davano proprio un giudizio molto vago, a me avevano detto di andare a un liceo, poi io ho preferito, diciamo, intraprendere questa strada tecnica. Le vostre scuole collaborano con imprese del territorio? La mia scuola collabora con le imprese principalmente durante il periodo estivo con gli stage di scuola-lavoro, anche se durante l'anno la collaborazione non è strettissima, per ovvie necessità in un liceo le collaborazioni non possono essere numerose come in un istituto tecnico o professionale. Gli istituti tecnici sono scuole di serie B? Non è per niente così, perlomeno dal mio punto di vista sono due scuole differenti che trattano cose proprio decisamente differenti, quanto un liceo sta molto di più appunto su cose teoriche, mentre quando si entra in un istituto tecnico si entra proprio a contatto con quello che è la realtà, quello che le aziende vogliono, e anche questo comporta difficoltà e comporta un certo livello di impegno, perché comunque rimangono scuole decisamente valide. Anch'io credo che siano estremamente validi, probabilmente alla pari con i migliori licei, soltanto danno un punto di vista differente rispetto alle cose. Quello dei licei è più teorico, quello dei tecnici è un po' più pratico.